Finalmente estate 2022, certosa a Bologna, questo palcoscenico che si rinnova per bolognesi e non curiosi e soprattutto per chi vuole vivere in una maniera assolutamente intensa ed eterogenea e espressioni legate alla cultura e allo spettacolo, come ho già detto, in un luogo magico. Intanto do il buongiorno a Roberto Martorelli. Buongiorno Roberto. Buongiorno William, buongiorno a tutti. Allora, si riprende, si ricomincia, ma quanto ci lavorate dietro al progetto Certosa Estate? Sempre! Ormai è un continuo, però diciamo che d'estate ci concentriamo. Ecco. Anche perché c'è la possibilità di esibire contenuti quanto mai interessanti. Quest'anno quali novità? Allora, diciamo, c'è una cosa che si sta ripetendo per la quarta volta, ma è sempre un po' una novità perché è una cosa un po' particolare. Sound and Silence è una performance audiovisiva di musica elettronica e raggi laser, che quindi, insomma, nei cimiteri non è che si Detta veda così. così spesso. Ecco. Altre novità sono, per esempio, dei percorsi di meditazione che si faranno in tre fasce orarie, una all'alba, una di notte e una al tramonto. E poi tanti percorsi nuovi di scoperta del luogo e di spettacoli teatrali e poetici legati al tema di Giuseppe Mazzini e le Mazziniane, cioè delle donne che nell'Ottocento hanno combattuto per i valori della Repubblica e della pari dignità uomo-donna. E quindi quest'anno può essere questo il filo conduttore? Sì, è questo. Ovviamente poi siamo nell'ambito di Bologna Estate, quindi c'è anche Lucio Dalla, Pasolini, Roberto Roversi, insomma, i grandi della poesia, della cultura del Novecento della città. La ricerca storica però è portata a Giuseppe Mazzini, peraltro tu con Museo del Risorgimento, insomma, sei vicino a tutto ciò anche al di fuori di Certosa. Sì, diciamo che oltretutto il cimitero, essendo il periodo, diciamo, più importante che lo caratterizza, proprio quello ottocentesco, ovviamente l'ambito, quello della storia del nostro risorgimento, è un focus importante. Quest'anno ci concentriamo appunto su Mazzini e i valori che lui ha portato nella nostra nazione. Orari, possibilità di accesso e modalità di partecipazione. Allora, la Certosa, patrimonio dell'umanità UNESCO dell'anno scorso, peraltro, è aperta tutti i giorni, ma gli appuntamenti sono tutti con prenotazione obbligatoria e gli orari e le date variano A tantissimo. seconda. Tendenzialmente sono i martedì e i mercoledì di ogni settimana. L'estensione del progetto per quanto riguarda il 2022. Sono praticamente 40 serate e 60 appuntamenti, tenendo conto anche di quelli diurni. Si parte ufficialmente Domani, 26 maggio, con le Mazziniane, quindi una visita in costume con l'associazione 800, che quindi vedrà in primo piano appunto le donne, saranno loro a parlare. sarai in scena? Io sarò in costume a fare Marcellino Cibò, custode di questa necropoli. E che quindi conosce bene già anche oltre che dal passato, ma anche dal presente. Usciamo un attimo da questa narrazione che è protagonista e parliamo un attimo di come stanno andando le cose per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, il rapporto con le istituzioni, lo svolgimento del lavoro, perché questo, come tu ben sai, è un luogo che ho a cuore, sono informazioni che ci tengo di avere. Diciamo che purtroppo causa Covid, diciamo così, gli operatori turistici hanno scoperto la Certosa. È all'aperto, 25 ettari, patrimonio dell'umanità. Quindi in questi 2 anni c'è stato un fortissimo incremento da parte proprio delle visite guidate turistiche, quindi abbiamo un forte impulso. Devo dire che anche qui si vede il ritorno dei turisti stranieri e da parte nostra noi garantiamo, diciamo così, un servizio di apertura dell'infopoint storico-artistico tutto l'anno e attività che ovviamente si concentrano appunto nel periodo estivo per ovvi motivi, ma che non si fermano comunque neanche d'inverno. Sì, Quindi infatti è questo che siamo. dicevo, non ci si ferma mai perché so che anche d'inverno ci sono realtà correlate. Continuiamo anche con le dirette Facebook, con le conferenze online in presenza. Diciamo così, il periodo degli ultimi 2 anni ci ha anche poi spinto ad aprire tutta una serie di attività che prima non tenevamo in considerazione, che invece, insomma, magari non così intense come prima, continuiamo a mantenere. Il programma è disponibile su Certosadibologna.it, ci sono già tutti gli appuntamenti, quindi uno può mettersi con l'agendina alla mano e Prender selezionare nota. fino al 2 novembre. Grazie, buona estate. A voi.